Sura 76esima. Al-Insan. L'uomo. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. Non è forse trascorso un lasso di tempo in cui l'uomo non sia stato una creatura degna di menzione? Invero creammo l'uomo per metterlo alla prova da una goccia di sperma eterogenea e abbiamo fatto sì che sentisse e vedesse. E gli abbiamo indicato la retta via, sia esso riconoscente o ingrato. In verità abbiamo preparato per i miscredenti catene, giochi e la fiamma. In verità i giusti berranno da una coppa in cui è un miscuglio di acqua e di kafur, attinta da una fonte da cui berranno i servi di Allah, che la faranno fluire con abbondanza. Coloro che assolvono i loro voti e temono il giorno in cui il male si propagherà ovunque, loro che nonostante il loro bisogno nutrono il povero, l'orfano e il prigioniero, interiormente affermano: è solo per il volto di Allah che vi nutriamo. Non ci aspettiamo da voi né ricompensa né gratitudine. Invero noi temiamo un giorno terribile e catastrofico da parte del nostro Signore. Allah li preserverà dal male di quel giorno e verserà su di loro splendore e gioia. Li compenserà del loro perseverare con il giardino e la seta. Adagiati su alti divani, non dovranno subire né il sole né il freddo pungente. Le sue ombre li copriranno e i suoi frutti penderanno portata di mano. Verranno serviti da un vassoio d'argento e coppe di cristallo e d'argento convenientemente riempite. E berranno colà da una coppa contenente una mistura di zenzero attinta da una fonte di quel luogo chiamata Salsabil. Saranno serviti da fanciulli di eterna giovinezza, vedendoli ti sembreranno perle sparse. Quando lo vedrai, vedrai delizia e un vasto regno. Indosseranno abiti verdi di seta finissima e broccato, saranno ornati con bracciali d'argento e il loro Signore darà loro una bevanda purissima. In verità questo vi sarà concesso in ricompensa e il vostro sforzo sarà riconosciuto. In verità siamo stati noi a far scendere gradualmente il Corano su di te. Sii paziente nell'attesa del decreto del tuo Signore e non obbedire al peccatore e all'ingrato dei loro. Menziona il nome del tuo Signore al mattino e alla sera e durante la notte prosternati a Lui e glorificalo a lungo nella notte. Coloro che amano l'effimero trascurano un giorno grave. Siamo stati noi a crearli e a consolidare le loro giunture. Se volessimo, li sostituiremmo con altri loro simili. In verità questo è un monito. Chi vuole intraprenda dunque la via che conduce al suo Signore. Ma voi lo vorrete solo se Allah lo vuole. Allah è sapiente e saggio. Introduce chi vuole nella sua misericordia, mentre per gli ingiusti ha preparato un doloroso castigo.